Roma Trastevere, 19 ottobre 1966. Caro Eleuterio, la casa che accolse mia madre sposa felice, oggi accoglie me sposa delusa. Sono triste, Eleuterio, infinitamente triste. Più o meno come la sera che per la prima volta vidi Marcello Marchesi nei panni di un signore di mezza età. Sono sul balcone, sotto di me Trastevere. Una pianola stona coscienziosamente un vecchio ritornello. E io penso che la pianola è una mamma che guarda rammaricata un figlio capellone che si chiama Jukebox. Penso anche che sei il solito stupido che scatena una lite per un piatto che si rompe. Sempre tua. Roma Parioli, 20 ottobre 1966. Inimitabile, sempre mia. La casa che oggi accoglie te, sposa delusa, avrebbe dovuto a suo tempo accogliere tua madre a suon di schiaffoni. Ma purtroppo le case non danno schiaffoni. Litigare per un piatto che si rompe sarà anche stupido, ma non dimenticare che quel piatto si è rotto a 2 centimetri dalla mia faccia, contro il muro, il che sta a dimostrare che la tua mira lascia a desiderare, grazie al cielo. Ciao. Ho scritto. Quando un uomo diventa genero, chiama la suocera mamma, così come il tifoso della squadra perdente chiama signore l'arbitro che ha decretato il rigore. Eleuterio. Roma Trastevere, 21 ottobre 1966. Caro Eleuterio, gatto. Secondo me gatto è un aggettivo. Avrei potuto scrivere gattissimo, ma sono arrabbiata e mi limito. La mamma è sul pianerottolo delle scale e conversa con la signora della porta accanto. Ha gridato 2 volte, delinquente. E siccome papà non c'è, la cosa ti riguarda direttamente. Delinquente. E penso che i delinquenti non sono che i datori di lavoro dei poliziotti. Ti chiedo scusa, non volevo tirare quel piatto, ma il melone che avevo a portata di mano avrebbe senza dubbio rovinato la carta da parati. Sempre tua. Roma Parioli, 22 ottobre 1966. Cara sempre mia, è incredibile come una cosa vuota a volte riesca a riempire una casa. Questa casa è vuota. Mi manchi. Torna. Torna anche per quel dubbio che la ragazza a mezzo servizio faccia salire uomini in casa. In salotto ho notato un tizio con la lobby e una giacca scura, piuttosto distinto. Non ho avuto il coraggio di informarmi. Ciao. Ho scritto. Ho guardato meglio il tizio in salotto. Si tratta del busto del vecchio Beethoven, sul quale chissà come sono finiti un mio cappello e una mia giacca. Eleuterio. Roma Parioli, 22 ottobre 1966. Eleuterio caro, micione. Sono tornata alla base e ho tentato di dare alla casa un aspetto normale. La prossima volta che rimarrai solo, ricordati che non serve inchiodare le finestre perché non battano. C'è una catenella per fissarle al muro. E il mobile bar, che è quello di noce in salotto, non refrigera, quindi è perfettamente inutile metterci dentro le fettine. Il frigorifero è quello bianco, situato in cucina, e non bisogna metterci dentro il sapone da barba. Ti sto aspettando. È quasi sera e penso che la sera, in fondo, è il titolo di testa della notte. E penso anche allo stupido perché della nostra ultima lite. Era l'ora di colazione e tu... Insomma, si mangia? 2 minuti, caro! 2 minuti. 120 secondi, niente. Ma l'uomo saggio, a questa misura di tempo stabilita da una moglie, dovrebbe meditare. 2 minuti, secondo lei, mi dividono da risotto alla milanese. 2 minuti, secondo lei, sono perlomeno mezz'ora. E ho fame. E il risotto tarderà. Biondo, odoroso, incipriato di parmigiano, con qualche neo di tartufo qua e là. È come se passeggiassi nervoso davanti al parco comunale in attesa della prima fidanzata. Ma è meglio il risotto. La fidanzata può diventare moglie, il risotto no. Al massimo può diventare supplì. 2 minuti, secondo lei. Ma proprio 2 minuti? Nemmeno, caro. Sto scodellando. Scodellare? Che verbo. Ma si tratterà di risotto o saranno agnolotti? Scodellare. Il guaio è che mia moglie scodella anche la minestrina al burro. Ma no, non avrei dovuto aspettare i 2 minuti. Ecco! Che roba? Germi di grano in acqua di carote senza grassi. Un appetito. Eh no, tu non mi devi provocare. Non puoi darmi germi di grano in acqua di carote senza grassi e dirmi buon appetito. Eh no! E poi perché? Per la pancia, sta ingrassando. Mia madre dice che devi fare la dieta. Tua madre? Ti riferisci a quell'aggeggio che insiste a vestire abiti femminili e a non radersi? Ti prego, non devi insultare mia madre, poverina. E poi di tanto in tanto si rade. E allora non si sa fare il contropelo. Ma tu? Tu cosa stai mangiando? Fegato d'oca. Un cannibale. Dammene un pochino. No, fa malissimo ai panciuti. È buono? Buonissimo. Me lo ha regalato la mamma. Adesso lo starà assaporando anche lei. Anche lei, il fegato d'oca. Con teugolina. E che cosa mangerò io dopo? Insalata con sale e limone e acciughe sotto sale. E tu? Stufatino con piselli e patate fritte, dice mia madre che mi devo nutrire. Ma io no. Tu no. Lo ha detto tua madre. Sì. Eleuterio, posa il coltello. No, non lo poso. Il delitto passionale prevede una pena ridicola. E tu mi stai tradendo in casa mia con il mio stufatino, con le mie patate fritte. Ho fame. Dammi da mangiare. Vado. Ma tu sei un bruto. Tornerò da mia madre. Dammi da mangiare e torna dove vuoi. Ecco. Tieni, mangia. Mortadella. Ah, finalmente. È fresca, eh? L'ho appena affettata. No, figlia snaturata. Non si affetta la propria madre. Insomma, basta, sei un... Ricordo perfettamente il perché della nostra ultima lite, ma tra poco, quando rientrerai, non lo ricorderò più. Ciao. Ciao, Eleuterio. Ho fame. Si mangia? Sì, caro. Tra 2 minuti soltanto.